Italia in controluce. È il pomeriggio di Radio 24, quella che va ad iniziare è naturalmente Italia in controluce, l'appuntamento quotidiano in due edizioni che racconta l'Italia attraverso gli occhi dei testimoni, dunque gli approfondimenti della redazione di Radio 24. Travolta dagli scandali e dalla deriva interna, dove va la Lega a guida Roberto Maroni? È solo di ieri la notizia di una nuova indagine su Umberto Bossi. Ma Bossi, siamo proprio sicuri che si metterà da parte? Sentiamo la reportage di Maria Luisa Pezzali. Siamo tutti uniti dopo la pulizia, siamo compatti, la Lega torna, la Lega Nord, la potentissima. Cosa si aspetta dalle amministrative? Mi aspetto grandi risultati. A Lega Unita Day, cinque giorni prima del voto, Roberto Maroni si aspettava grandi risultati dalle amministrative 2012. Risultati che invece non sono arrivati. Il carroccio è franato soprattutto al nord, come ha poi ammesso lo stesso ex ministro il giorno del verdetto. Sono state per la Lega elezioni difficili in un momento particolarmente complicato. Abbiamo pagato un prezzo alle vicende che hanno avuto grande risalto sui giornali. Questo è evidente, ma nonostante questo non solo la Lega è sopravvissuta, ma in alcuni posti ha avuto un buon successo e in altri un successo clamoroso come a Verona. Ma il successo di Verona con la riconferma di Flavio Tosi non compensa una perdita di consensi che l'Istituto Cattaneo di Bologna ha messo nero su bianco. La Lega emerge dalla rielaborazione dei dati elettorali ha perso la metà dei voti. Tanto più che Tosi, il ribelle minacciato di espulsione, nella roccaforte dei barbari sognanti, la corrente maroniana della Lega, è stato sospinto da quelle liste civiche che Bossi voleva bloccare. E anche qui i numeri parlano chiaro. La lista Tosi ha conquistato il 37% delle preferenze contro un risicato 10% della lista Lega Nord Bossi. Verona, a parte il carroccio, crolla soprattutto in Lombardia, dove perde molti sindaci. Al primo turno se ne aggiudica solo 10, 5 vanno al ballottaggio, erano 23. La Lega resta fuori da sfide importanti come Como e Monza, dove Bossi ha chiuso la campagna elettorale, e perde molti luoghi simbolo, culla del movimento, soprattutto in provincia di Varese. Cassano Magnago, il paese natale del Senatur, da 20 anni in mano ai leghisti. Besozzo, a 2 passi da Gemonio, dove il Senatur tutte le mattine fa colazione. Gerenzano, su Mirago. E poi Sarego, provincia di Vicenza, dove ha sede il Parlamento padano, primo comune conquistato da un sindaco del Movimento 5 Stelle. Un crollo inconfutabile, colpa degli scandali, certo, ma anche di una promessa di cambiamento che i fatti ancora non dimostrano. Da Radio Padania, martedì 8 maggio. Ho sentito tanta gente che era convinta di votare il nostro candidato sindaco Legnano. Poi quando è saltata fuori la storia di Bossi che vuole ricandidarsi, tanta gente probabilmente non è neanche andata a votare. Penso che perderemo ancora tanti voti. È chiaro, abbiamo cantato il Demi Demi e ce li hanno date, perché la famiglia Bossi ci ha messo di tutto e di più per far sì che questo avvenga. Però dico, se avessimo fatto le riforme che dovevano essere fatte, che la base chiedeva, non saremmo arrivati a questo punto. Perdere Monza, cioè non è una cazzata, cioè siamo fuori addirittura dal ballottaggio. Cioè ragazzi, qui la pulizia va fatta in modo serio. Sembra una barzelletta, cioè il figlio del segretario della Lega che prende una laurea fasulla a Tirana in Albania. Cioè, stop, punto. La Lega sicuramente ci rimetterà a cuope tutto quanto. Però bisogna cambiare sistema. Voto difficile, ammette anche Matteo Salvini. Amministrative complicate per i candidati della Lega, che ringrazio da primo all'ultimo, e ringrazio anche gli elettori della Lega, perché è un voto che è valso doppio, perché si sono dovuti districare fra diamanti, lauree in Albania e lingotti d'oro. Secondo l'analisi dell'Istituto Cattaneo, i voti per la Lega sono stati nei comuni del nord 331.000 alle politiche 2008, 308.000 alle europee 2009, 311.000 alle regionali del 2010, 145.000 nella tornata amministrativa appena conclusa. Il calo è stato dunque superiore al 50%. Secondo il politologo Roberto Dalimonte, su tutto hanno pesato gli scandali, ma la vera partita per la Lega si giocherà nei prossimi mesi. Sicuramente hanno pesato gli scandali. la Lega è stata pesantemente penalizzata dagli scandali. Un elemento interessante, ma questo è ancora molto speculativo, è vedere cosa farà la Lega, perché anche la Lega di Tosi, non la Lega di Bossi, la Lega di Tosi e di Maroni potrebbe aspirare a rappresentare una parte di questo voto moderato che in questo momento è in, come si dice, in libera uscita. Toccherà al Congresso federale di fine giugno sancire la svolta della Lega all'inizio dell'era Maroni, ormai candidato unico nella corsa alla segreteria dopo il lungo braccio di ferro con Bossi e l'ala a lui più vicina. Qualche giorno fa il Consiglio federale del Carroccio ha sancito il passo indietro del senatur che ha dato la sua investitura all'ex ministro. Bossi dovrebbe ricoprire la carica a vita di presidente fondatore, un accordo che giunge dopo mesi di tensioni culminate 2 settimane fa in quell'annuncio a sorpresa del segretario uscente per una sua possibile ricandidatura. Ora il senatur sembra essere tornato sui suoi passi, rinuncia allo scettro di monarca assoluto, anche se c'è ancora chi fra i maroniani non ci crede del tutto e invita alla prudenza. La nuova Lega avrà una gestione più collegiale con l'istituzione delle figure di 3 vicesegretari, di cui uno vicario, quasi sicuramente il governatore del Veneto Luca Zaia. Ma sul tavolo restano, fra i nodi da sciogliere, il problema del simbolo, le contrapposizioni fra la Lega Lombarda e quella veneta e, anche all'interno di questa, una corrente antitosi. In gioco c'è non solo la sopravvivenza del Carroccio, ci dice Curzio Maltese, giornalista di Repubblica, autore di Viaggio nella crisi della Lega. È finita la Lega di Bossi. È finita la stagione di Bossi, questo è il fatto evidente dal risultato elettorale. E la sconfitta nei luoghi di casa è la fine della parabola di Bossi. La nuova Lega è la Lega di Maroni e dei Veneti. I Veneti sono stati per 15 anni, come dicono loro, colonizzati dai Lombardi, da Milano e da Varese. Oggi la vittoria di Tosi, i successi di Zaia, ripropongono una gestione della Lega in qualche modo paritaria tra Lombardia e Veneto e probabilmente con questo anche una svolta politica, cioè dall'alleanza di ferro con Berlusconi alla prospettiva che Maroni più volte ha fatto balenare di una Lega come il Partito Catalano, cioè è in grado di trattare un po' con chiunque, con la destra, con la sinistra, con qualunque governo, pur di ottenere, diciamo, la difesa degli interessi locali. Questa è l'ipotesi, diciamo, migliore di evoluzione della Lega, altrimenti è la disfatta, insomma. Le minacce sono molte sul mercato della politica. Bossiani contro Maroniani, Veneti contro Lombardi, ma anche fra gli stessi Veneti, ad esempio, c'è un fronte antitosi. La Lega si sta sgretolando nelle diverse correnti? La realtà è che c'è un conflitto latente da molti anni che è fortissimo. C'è un rischio di una specie di balcanizzazione della Lega, come ho scritto più volte. Non solo il conflitto tra veneti, lombardi, piemontesi o emiliani, ma in pratica tra una città e l'altra, tra un paese e l'altro, tra una corrente e l'altra. E il compito più difficile che aspetta Maroni è quello di continuare a tenere insieme un popolo che tende naturalmente invece a entrare in fortissimo conflitto, in forti tensioni locali, perfino negli stessi paesi, non so, della provincia di Varese ci sono anime diverse della Lega. In gioco c'è la sopravvivenza del partito e secondo me anche qualcosa che interessa un po' tutti, cioè quello che si è affermato da Umberto Bossi in poi, che Berlusconi ha copiato in realtà, perché Bossi è stato il primo, è stata questa struttura di partito assolutamente padronale. Noi non abbiamo dei partiti, abbiamo una dozzina di leader che comandano la loro azienda come dei padroni, con una parziale eccezione, diciamo, per il PD, che è rimasto più tradizionale da questo punto di vista, più collettivo. E quello che succederà nella Lega, secondo me, è significativo di quello che succederà nel quadro politico italiano, perché quello è il primo partito a struttura padronale che collassa e tutti gli altri partiti nati dopo la Lega hanno imitato la struttura padronale. Questo vale perfino per Di Pietro, che è padronissimo nel suo partito, addirittura incassa i rimborsi elettorali elettorali, anche assetti tutti questi anni, una società a suo nome. E vale per Grillo, che è proprietario del marchio 5 Stelle, depositato alla Camera di Commercio. Cioè, insomma, sono fenomeni che nel resto del mondo sarebbero impensabili. Era Italia in controluce, torniamo domani alle 6.30 su Radio 24. Vi ricordo che questa, come tutte le puntate, è scaricabile su podcast all'indirizzo radio24.it.